la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Questo martedì 4 di febbraio 2014, 16:36, 23 secondi. Siamo in diretta agli studi Radio 24 di Milano. Bene, la puntata di oggi è una specie di risposta che abbiamo immaginato a una frase che la politica usa ricorrentemente, ma che in questi giorni è risuonata sulle labbra del Presidente del Consiglio, Enrico Letta. È capitato che il Presidente di Confindustria gli ricordasse per tante ragioni le promesse di abbattere il cuneo fiscale non mantenute, il fatto che ci becchiamo una procedura di infrazione europea perché l'impegno di pagare il debito che lo Stato deve alle imprese fornitrici non è mantenuto, eccetera eccetera eccetera. A un certo punto il Presidente di Confindustria è sbottato e ha detto: beh, ma se questo governo non cambia passo, meglio le elezioni, insomma. Il Presidente del Consiglio, in giro per un tour per promuovere l'Italia nel Golfo, per chiudere con Etihad la faccenda di Alitalia, per ottenere notizia di ieri sera, stamattina, 500 milioni di euro di investimenti dal Fondo Sovrano del Kuwait, ha replicato brutalmente. Ha detto: ciascuno faccia il suo mestiere, voi pensate a lavorare, noi facciamo il nostro, ma bisogna nutrire fiducia. Allora, di fronte a una condizione del paese che ha milioni e milioni di italiani con la più forte, intensa, profonda perdita di reddito, risparmio, prospettive, ripeto, milioni, in tutto il secondo dopoguerra, ci siamo chiesti: ma a questi milioni di italiani come gli possiamo dire che pensino a lavorare come se un lavoro ce l'avessero, pensino a nutrire fiducia? Come si fa a chiedere alla gente che sta in ginocchio, ha perso così tanto di quello che aveva, nutrire fiducia, se in questi anni ha visto il contrario, ha visto lo Stato prendere per sé, non mantenere la promessa, le imprese chiudere, il lavoro andarsene, le tasse salire? Di stamattina notizia che entrerà presto in vigore anche la tassa sugli smartphone, 5 euro in più allo Stato, fino a 40 sui decoder, perché per il vostro diritto a scaricare le cose bisogna pagare la SIAE, la società degli autori ed editori, e quindi lo Stato si inventa questo mega aumento ulteriore di questo tipo di imprese. Post. Allora abbiamo deciso di chiamare uno dei tantissimi italiani che ci scrivono incessantemente qui al sito della versione di Oscar Radio 24, perché la sua storia, tra le tante, secondo me è una storia esemplificativa di italiani che si trovano ad aver perso e si trovano a non essere tutelati, e farci raccontare dalla sua voce che cosa può pensare di una politica che gli dice: ma tu devi nutrire fiducia, tu pensa a lavorare che io penso al mio. Ecco, tutto qua. E abbiamo scelto questa lettera ed è con noi chi ce l'ha scritta. Si chiama Fausto, è un ex imprenditore ed è di Marano Lagunare, in provincia di Udine. Buon pomeriggio, Fausto. Grazie a voi, grazie Giannino della chiamata. Allora, lei mi ha scritto questa lettera, però io le chiederei di raccontare che cosa le è avvenuto in questi ultimi anni. Quanti anni ha lei? Io avrò 62 anni tra 20 giorni. Ecco. Quindi sono nato nel famoso 1952, che è stato un po' discriminato dalla famosa legge Fornero, insomma. Quindi sono dentro in quel contenitore che non è né carne né pesce. E lei cosa faceva prima della crisi? Allora, io non nasco, bisogna fare una premessa, io non nasco imprenditore, io nasco come un impiegato, poi dirigente d'azienda, amministratore delegato di altre aziende. Dopodiché nel 2006 decido di scegliere di fare l'imprenditore, prendo i miei quattro risparmi, sono un po' più di quattro risparmi, e li investo per acquistare una piccola azienda. Dopodiché 2006-2007 grandi cifre, fatturato che aumenta di in doppia cifra, grandi prospettive, investimenti, progetti di ricerca e compagnia bella, ma purtroppo acquisto un'altra azienda da affiancare alla prima. Nella seconda metà del 2008 cosa succede? Il mercato improvvisamente si chiude, facciamo fatica a portare a casa il lavoro, di 50-52 persone rimaniamo in 30, nessuno perde una lira di fatto, perché tutti si trovano una ricollocazione oppure vengono traghettati alla pensione, e la cosa va avanti per così, per inerzia, per 2 o 3 anni. Dopodiché nel 2012, con l'acqua alla gola, dopo aver buttato tutto quello che io avevo, il mio patrimonio, le mie, essermi fatto aiutare anche da, da amici e conoscenti che mi volevano bene, l'azienda fallisce. Un tragico evento che non sto a raccontare, certo, perché poi alla fine si passano dei momenti veramente tristi. Quindi col fallimento però anche tutti i suoi dipendenti hanno avuto diritto al TFR? Assolutamente sì, perché poi loro si sono rivolti, sono stati i miei dipendenti, gli ultimi rimasti, a farmi poi fallire per poter recuperare dall'INPS il TFR, perché anche questa contraddizione, voglio dire, c'è un conflitto di interessi tra il dipendente e l'azienda. Il dipendente porta a casa il TFR dall'INPS solo se fa fallire, se l'azienda è fallita. Vabbè, a parte questo particolare. Quindi io nel 2012, a novembre del 2012, 60 anni compiuti, 35 anni e oltre di contributi, versati come impiegato, come dirigente, come parasubordinato, spero di andare in pensione, almeno di salvare un piccolo reddito che mi dia la possibilità di sopravvivere. Ma qualcuno potrebbe pensare che, va bene, l'imprenditore ha fatto l'azienda, un'azienda con 52 dipendenti, quindi non è una micro azienda, è una piccola azienda, ma non è micro. Poi arriva al fallimento, ma avrà un patrimonio che gli consente a quel punto di andare avanti, o no? Beh, lei sa meglio di me che noi piccoli imprenditori, poi specialmente in questa piccola regione, che è una bella regione, Friuli Venezia Giulia, ma manca tutta la fascia di imprenditoria media, almeno questo è il mio pensiero. C'è la grande industria, ci sono i signori Danieli, i signori Cimolai, ma manca la media industria, quelli che fatturano i 30-40 milioni, che fanno girare quelli piccoli come noi. Sì. E quindi noi dobbiamo supportare questa mancanza. Ci buttiamo dentro tutto, ci buttiamo dentro la salute, i soldi, e non guardiamo in faccia nessuno, firmiamo anche delle garanzie che non dovremmo firmare. Quindi alla fine non ti sei messo da parte nulla, hai buttato dentro in quello che credi giusto sia, e quando succede il fattaccio rimane, come si dice, in braghe di tela. Quindi lei ha impegnato il suo patrimonio con chi? Con le banche, con Equitalia? Sì, con le banche fondamentalmente, perché poi Equitalia entra in gioco dopo, quando tu non riesci più a far fronte a contributi e a imposte varie. Quindi fallisce l'azienda, fallisco io fondamentalmente, no? Perché non mi rimangono quattro soldi che sono riuscito a salvare dal blocco dei conti che mi ha fatto Equitalia, piuttosto che l'Agenzia delle Entrate, piuttosto che banche varie. Quindi vado avanti per un certo periodo mangiando quei quattro soldi che mi sono messo da parte, sperando di poter accedere almeno al trattamento pensionistico, di cui teoricamente dovrei aver diritto secondo i vecchi canoni. Ma me lo vietano, perché mi rimandano 66 anni e 7 mesi, cioè io teoricamente dovrei prendere la pensione per quello che vale il 22 settembre del 2018. E cosa faccio da adesso fino al 2018? Nessuno mi considera, perché io non sono un ex dipendente, io non sono un esodato, non sono un salvaguardato. Non posso accedere agli ammortizzatori sociali, non posso accedere ai lavori socialmente utili. Perché non può accedere ai lavori socialmente utili? Perché non sono un dipendente, non ero un dipendente, attenzione. Quindi lei non ha la mobilità. Non porto la dote che portano quelli in mobilità, piuttosto che quelli in cassa integrazione, piuttosto che quelli che prendono l'assegno di disoccupazione, che io non posso prendere. Quindi non sono riconosciuto da nessuno. E le rimangono proprietà? Sì, ma sono tutte ipotecate, sono tutte impegnate a favore dei miei creditori. Quindi io improvvisamente da una vita normale, decorosa, dignitosa, passo a essere e a considerarmi, perché poi fai delle brutte riflessioni, a considerarmi un barbone, tra virgolette, perché non ho più un'entrata certa, non ho più tanti amici, si sono allontanati, non ho più un'autovettura, non posso fare le cose che mi piacciono fare, se voglio andare a una mostra a Venezia ci ragiono tre giorni, perché spendo 100 euro, 150 euro e io con 150 euro vivo due settimane. Allora, io adesso devo interrompere per 60 secondi perché c'è l'informazione stradale. Questa, in sintesi, come l'avete sentita, è la storia di Fausto, uno che ha creduto in se stesso, crea un'azienda, dà lavoro a 52 famiglie, arriva la crisi, chiude, si impegna tutto quello che ha, i suoi lavoratori li salvaguarda, vengono tutti salvaguardati come è giusto in un paese civile, lui però ci resta di mezzo, non ha più niente, non è un esodato, per il fatto di non essere un dipendente non ha accesso a nessun tipo di tutela e lo Stato gli dice, eh no caro mio, devi aspettare 4 anni e mezzo, noi non sappiamo cosa farci. Chi lo prende a 62 anni? Per fare che cosa? Come può Fausto sentirsi dire nutri fiducia e pensa a lavorare? Come fa se il lavoro a Fausto non lo dà nessuno? E qui parla Fausto, ma ce ne sono per storie diverse, non tutti imprenditori, molti dipendenti, molta gente che ha avuto problemi nella copertura continuativa, contributiva e così via. Ecco, milioni di italiani si trovano in questa condizione. Io penso che si debba pensare a loro, invece che dire con un certo dispetto, ognuno faccia il suo lavoro e voi pensate a nutrire fiducia. Magari mi sbaglio, sentiamo come la pensate, ma adesso strade. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornate in diretta, 16:48 e 30 secondi, una raffica di sms da ascoltatori, molti esprimono solidarietà, alcuni dicono sono artigiano, lavoro per conto, ditte, tutto fatturato, però la media oramai dei pagamenti che mi arrivano sono 160 giorni, se va bene, non è solo lo Stato, verissimo, che continua a non pagare, la catena dei mancati pagamenti si è allungata in tutto il settore privato e spesso anche i grandi ne approfittano, questo non c'è dubbio che sia così. Qualcuno dice però non se la prenda troppo con Enrico Letta, ha trovato un paese sfasciato, verissimo, e chi lo nega, c'è una responsabilità pluridecennale, resta il fatto che quando prese il governo in mano disse che abbassava il cuneo fiscale eccetera eccetera eccetera, abbiamo perso 10 mesi e mezzo sulla sola IMU e si paga pure di più di imposte immobiliari rispetto al 2013, ma detto tutto questo io non ce l'ho con nessuno, io mi limito a dire che c'è una condizione oggettiva nel paese e secondo me è un errore tante volte compiuto dai governi prima, quindi impariamo, no, a non ricommetterlo, di tentare di indorare la pillola quando invece la realtà è molto più amara, e probabilmente in una realtà amara bisogna pensare a concentrarsi come priorità soprattutto con chi sta peggio e non ha nessun tipo di copertura, e ce ne sono tantissimi nella società italiana, altrimenti facciamo dell'infondato ottimismo che tante volte poi ha prodotto il risultato che ha prodotto, sfiducia ulteriore, disperazione, ecco, tutto qua, io non voglio fare la lezione a nessuno, però guardate che come lettere come questa di Fausto noi ne continuiamo a ricevere dai tempi di Disperati Mai, questi microfoni a pacchi, tutti i giorni, non è che scrivono solo qua, scrivono dovunque chiedendo voce e la gente poi si incazza. E secondo me ha ragione, perché non vedo cosa possiamo dire a Fausto se la risposta è solo no grazie, aspetta 4 anni. Alcuni poi di voi dicono, beh, un imprenditore rischia, se gli va male capite che non si può paragonare a un dipendente. Ecco, chiedo a Fausto, chi fa questo ragionamento, che impressione le fa? Beh, da burocrate, credo. me l'ha fatto il funzionario dell'INPS che mi ha risposto e mi dice, vabbè, lei non è un esodato, lei non è un salvaguardato, lei non è una specie in via di estinzione, e quindi tutto questo fa parte del rischio di impresa che lei si è assunto quando ha fatto questa scelta di vita, insomma. Io però quando ho fatto questa scelta di vita avevo degli obiettivi, far crescere l'azienda, arrivare alla soglia della, dopo aver lavorato 40 anni, ripeto, non è che sono 20 anni che lavoro, devo aver lavorato 40 anni alla soglia della meritata tra virgolette pensione e portare se ne avessi dei nipotini ai giardinetti, e invece mi sono trovato alla fine del 2012 che hanno cambiato le carte in corso d'opera, quindi io mi sono trovato senza niente, voglio dire, senza il lavoro e senza la pensione, però bisognerebbe distinguere le due cose. Io mi sono fatto una buona autocritica rispetto alle mie scelte Ma lei pensa di aver fatto il passo troppo lungo della gamba quando prese un'altra azienda? Ma assolutamente no, ma quando mai? Io ho preso un'azienda che fatturava 2 milioni e mezzo nel 2005, nel 2006 ne fatturavamo 3,2, nel 2007 ne fatturavamo 3,5, voglio dire, io non sto dando addosso a nessuno, tra virgolette, mi rendo conto che di aver fatto degli errori, voglio dire, nel 2008 stavo schiacciando il pedale dell'acceleratore, è arrivata la crisi, forse era meglio l'investimento dell'altra azienda non farlo, che mi è costato 600-700 mila euro, piccole cose, non sono delle grandissime cose, però sommando le piccole cose col senno di poi, se non l'avessi fatto forse non succedevano certe cose, però è solo chi non fa niente che non sbaglia mai, insomma alla fine quando ci sei dentro queste cose le fai perché hai la passione, perché per tante cose, insomma, alla fine. Quindi io non do addosso a nessuno, mi sono fatto una sana autocritica, non sto dicendo, mi spiace aver travolto in questa situazione anche amici, dipendenti e compagnia bella, ma questa è un'altra questione. Certo. Io sto solo cercando di trovare un'identità. Chi sono io in questo momento? Che nessuno mi riconosce, eppure io. In che settore era la sua azienda? In che settore era? Metalmeccanico. Io spero che qualcuno che ascolti si possa far venire qualche idea, magari da girare a Fausto Biancardi, e si metta in contatto con noi, noi lo mettiamo in contatto con lui. Abbiamo una telefonata, Marco, che ci chiama da Roma. Prego, Marco. Buonasera, Buonasera. Complimenti per la trasmissione, prima di tutto è veramente interessante. Io sono ho una piccola impresa edile e lavoro, faccio appalti per enti pubblici. Ah, e come la pagano a lei? Con che tempo? Allora, nello specifico fa per esempio la ASL, le ASL o per la sanità nel Lazio, io ho fatto un contratto con la regione e con una banca, ho fatto un prosoluto e dal momento della certificazione 5 giorni ho i soldi nel conto, ma il problema non è questo, a parte la piccola percentuale da dare alla banca, il problema è arrivare alla certificazione dal giorno del lavoro. Lì è una cosa terribile, passano 5, 6 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 8 mesi. Però vorrei dire anche un'altra cosa. Ho fatto i lavori per esempio per l'esercito e la mia fattura ha avuto 7 passaggi. Io ho fatto dei lavori in Umbria, tanto per senza che dare lo specifico. La mia fattura è arrivata prima a Perugia, da Perugia è arrivata a Pescara perché era l'ente competente, da Pescara a Firenze, da Firenze a 2 amministrazioni pubbliche. Una pallina da flipper praticamente. 2 amministrazioni pubbliche, poi dalle 2 amministrazioni pubbliche della difesa, fino alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia dentro il mio conto corrente. Quindi, ma quanti soldi è costata sta fattura, oltre che a me, allo Stato? Soprattutto, che tanto lo Stato lo paghiamo noi, quindi sa. Va bene, mi pare di capire che il problema della certificazione, dice Marco, io qui c'ho una raffica di messaggi, veramente vorrei che voi li vedeste che siete a casa, da quelli di una signora che dice: hanno negato oggi la salvaguardia a mio marito e io non so come dirglielo stasera che deve aspettare fino al 2021, non faccio il nome ovviamente, però è terribile, ad Alberto che ci dice l'imprenditore che fallisce perché di tutti i conti che aveva ben 9 erano in realtà a tassi di usura e per questo fallisce e se lo fa fritto che lo riconosceranno quando è troppo tardi. Allora, io posso solo ringraziare Fausto Biancardi per questa testimonianza che ci ha dato. Se avete delle idee per utilizzarlo, fatevi vivi con noi, continuate su Radio 24, l'appuntamento con me a domani.